Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo Filippa Orreggi, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Il tema di oggi già in qualche modo, almeno l'argomento, già lo immaginate, ma noi abbiamo fatto il sommario, a questo punto lo sentiamo. Sportivi in erba o giocatori liberi? HPV e infertilità maschile. Epilessia a scuola. Parliamone. L'importante è che si muovano o che imparino. Parliamo oggi dei nostri bambini, per loro il movimento è fondamentale, ma quello che ci chiediamo oggi è: meglio lasciarli liberi di fare quello che a più loro piace, oppure bene metterli nella condizione di imparare un'attività sportiva? Penso ai corsi di nuoto, al tennis, al calcio. Questo è il tema di oggi, 800 24 00 24. Potete intervenire anche scrivendoci un messaggio al 349 238 6666. Qua in studio con me il nostro dottor Franco Confalonieri. Dottore, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Noi siamo accaniti sostenitori del gioco, ma si può imparare uno sport anche giocando. Questo forse è il segreto, no? Per prendere tutto il meglio dell'attività fisica. Ma diciamo che noi siamo accaniti sostenitori del fatto che ci si muova tutti i giorni tanto. Oggi proprio è una trasmissione su uno dei nostri cavalli di battaglia. Abbiamo detto più volte che un bambino avrebbe bisogno almeno di 2 ore di gioco di sport tutti i giorni. Purtroppo in Italia è sempre più difficile, purtroppo non si fa scuola e quindi come fare? Tutto il peso ricade poi sulle famiglie. Diciamo che idealmente bisognerebbe alternare gioco e sport. Se non è possibile, se abbiamo la possibilità di farli muovere soltanto 2 o 3 volte a settimana, parlo dei bambini soprattutto dai 6 ai 10, 12 anni, l'indicazione che io do è: se possibile preferite il gioco o uno sport con un'elevata componente ludica, almeno fino ai 10 anni. Dopo potete indirizzarlo con più precisione verso un'attività specifica ad elevato contenuto agonistico. Questo per cominciare a introdurre il tema, ma è molto vasto, poi proviamo ad articolarlo meglio. In linea con noi abbiamo il professor Pietro Trabucchi, psicologo dello sport, professore all'Università di Verona in psicologia dello sport e autore di Resisto dunque sono. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, ciao Franco. Ciao Pietro, buongiorno, ben ritrovato. Professore, per i bambini muoversi è naturale e il gioco sicuramente li aiuta a crescere, ma imparare uno sport insomma, è qualcosa di diverso, anche se la componente ludica deve rimanere assolutamente prioritaria. Professore, lei come la pensa? Ma io penso che assolutamente la componente ludica sia importante, però a volte con le possibilità reali dei bambini che vivono nelle città, la possibilità di fare una reale attività ludica che sostituisca lo sport è un po' difficile. Allora fare uno sport ha dei grossi vantaggi, non solo io condivido molto le idee del dottor Confalonieri sulla multilateralità, sul fatto di dare molti stimoli motori ai bambini diciamo da quando sono piccoli in poi. Credo che comunque aderire e praticare una disciplina sportiva fin da piccini dia dei vantaggi anche in chiave di sviluppo della personalità, in chiave psicologica, cioè il bambino si abitua sostanzialmente a impegnarsi per raggiungere un obiettivo, impara le regole, impara quella che all'inizio è disciplina ma che poi deve diventare autodisciplina, no? Quindi sostanzialmente impara a motivarsi e ad autogestirsi, autoregolarsi, no? Quindi il difficile purtroppo nella nostra società è ottenere 2 cose, cioè che lo sport sia realmente un'attività che ha tutti e 2 gli aspetti, e invece molte volte diventa una caricatura dello sport dei grandi, degli adulti, no? Quindi sì. È legato al risultato e alla prestazione, e invece se si lascia i bambini liberi di giocare è difficile, come dire, ottenere un modello di gioco, una pratica efficace in questo senso, anche perché, come dire, da un punto di vista proprio delle strutture, delle possibilità logistiche, organizzative di queste cose, cioè magari 50 anni fa i bambini avevano i cortili, adesso invece spesso l'attività fisica si può praticare solo in palestra o in piscina, in strutture organizzate. Prima di ricordarvi il nostro numero verde che è 824 0024, le domande di rito. Sì, è una domanda oggi particolarmente provocatoria, vorrei che ciascuno rispondesse guardandosi dentro, ma davvero, quindi vorrei chiedere ai genitori in ascolto, ma per voi è più importante che vostro figlio impari a leggere, a scrivere o magari a suonare, o è più importante che impari a muoversi bene con intelligenza? Rispondetemi sinceramente. Seconda domanda, effettivamente quante ore di gioco e di attività fisica fa in una settimana vostro figlio? Fate due conti e poi mandateci un sms al 349-238-6666, oppure possono anche chiamare, assolutamente, vero? Sì. Una mela al giorno. Ieri in chiusura di trasmissione abbiamo parlato di HPV, un virus pericoloso anche per gli uomini perché può minacciare la fertilità, ed è tornato a trovarci il professor Foresta, ordinario di patologia clinica all'Università di Padova. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei, buongiorno. Professore, facciamo un breve riassuntino della puntata di ieri? Volentieri. Allora, sì. Vada lei, prof. No, volevo soltanto dire che per quanto riguarda il papilloma virus è sbagliato credere che sia un'infezione che colpisca soltanto le donne. È pur vero che la manifestazione più importante del papilloma virus è il tumore del collo dell'utero delle donne, quindi ci si è focalizzati soprattutto su questo aspetto, ma è altrettanto vero che sono molte le altre manifestazioni cliniche collegate a questo virus che interessano sia l'uomo che la donna. Prenda per esempio i condilomi, prenda i tumori dell'orofaringe, i tumori dell'ano. Ma a prescindere da questo, che era già noto anche se non sufficientemente messo in evidenza, la novità sta nel fatto che abbiamo individuato la presenza del papillomavirus nel liquido seminale. Quando noi abbiamo analizzato il liquido seminale di un grosso gruppo di giovani diciottenni, perché noi eseguiamo un progetto di prevenzione andrologica, sì, noi abbiamo visto che già a 18 anni nel 25% dei casi è presente trovare il papillomavirus nel liquido seminale. Questo non significa che poi rimanga sempre lì, perché nell'85% poi scompare entro un anno e mezzo, come succede anche nelle donne. Però quando abbiamo visto dove si localizza in alcune condizioni questo papillomavirus, abbiamo visto che si localizza sulla testa degli spermatozoi. E quando abbiamo analizzato il liquido seminale in modo particolare nei giovani che hanno il papillomavirus, abbiamo visto che questo liquido seminale è caratterizzato da una ridotta motilità. La motilità degli spermatozoi è fondamentale perché questi possano poi fertilizzare l'ovocita. La cosa ci ha preoccupato. Allora siamo andati a vedere in delle coorti, in dei gruppi di pazienti a rischio, sì, sono pazienti a rischio quelli per esempio che hanno la partner positiva per il papillomavirus. In questi pazienti abbiamo trovato il papillomavirus nel liquido seminale e anche in questi casi la motilità era ridotta. Sì. Allora siamo andati a vedere gli infertili in modo casuale e abbiamo visto che il 10% degli infertili ha il papillomavirus nel liquido seminale. E quindi ci è venuto chiaro il concetto di associazione tra un elemento e una manifestazione clinica. Poi abbiamo portato avanti i nostri studi e a febbraio di quest'anno, nell'ambito di un convegno che ha visto partecipare i più grossi esperti delle materie in gioco, abbiamo dimostrato come effettivamente il papillomavirus nel liquido seminale sugli spermatozoi interferisce con la fertilità, e quindi è una roba completamente nuova alla quale dobbiamo dare molta attenzione e quindi considerare la vaccinazione anche per i giovani maschi, perché è assurdo pensare di vaccinare le femmine e poi non i maschi. Ecco, professore, ma voi presso il centro di crioconservazione dei gameti maschili dell'azienda ospedaliera universitaria che lei dirige, avete fatto un passetto in più, siete un po' andati al cuore del problema. Che cosa avete fatto? Noi abbiamo creato degli spermatozoi infettati artificialmente. Sì. Cioè abbiamo, quindi è una tecnica di laboratorio, e poi abbiamo utilizzato in laboratorio un test di fertilizzazione chiamato hamster test, utilizzando gli ovociti di hamster. E noi abbiamo documentato che gli spermatozoi che sono portatori del papillomavirus riescono a fertilizzare l'ovocita di hamster, lo fertilizzano come si fertilizza quello umano. E una volta che il DNA virale sia stato portato dentro l'ovocita di hamster, questo DNA virale viene attivato e produce proteine virali all'interno dell'ovocita. Questo è un segnale chiaro di come alcune cause di abortività possono essere collegate alla presenza di questo virus sugli spermatozoi. Professor Foresta, è stato chiarissimo, la ringrazio per essere stato con noi e soprattutto per essere ritornato. Abbiamo dato questa notizia un po' a puntate, ma oggi abbiamo proprio l'abbiamo recuperata in toto. Buon lavoro e buon convegno. Grazie professor Foresta. Grazie, arrivederci. Pronto soccorso. E noi torniamo ai nostri bambini, oggi giocatori liberi o sportivi in erba, una domanda provocatoria del dottor Confalonieri, abbastanza, è andato giù piatto, dottor Confalonieri oggi? Sì, assolutamente. E lei, ad esempio, quando era piccolo, era un tipo da cortile o da campetto? Io sono stato da un lato vittima di genitori che hanno privilegiato la formazione intellettuale a quella motoria. E qui già rispondo indirettamente alla domanda che ho fatto. E comunque ero tipo da giardino, avevamo i giardini vicino a casa e si passava lì il pomeriggio, bicicletta e calcio fondamentalmente, o prima uno di quei tanti giochi su cui tornerò dopo tipici della tradizione. Invece con lei, professor Trabucchi, io non oso, ma se insiste lo chiedo anche a lei, era da cortile o da campetto o da piscina, cosa faceva? No, io ho avuto la fortuna di essere più da campetto, nel senso che mio papà era appassionato di montagna e quindi mi ha, fin da quando ero molto piccolo, portato a fare gite, a sciare, e anche lui arrampicava, era un appassionato di alpinismo, e quindi ho cominciato anche fin da bambino a arrampicare, sì, un po'. Certo, insomma, che il genitore fa la differenza, la passione del genitore poi guida, no? Nelle scelte, ad esempio, infatti, un ascoltatore dice assolutamente nella nostra società prima la scuola, Giuseppe, assolutamente, chissà, magari ci sono altri ascoltatori che vogliono intervenire, ce ne sono, Andrea da Milano, buongiorno Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai professori. E io volevo fare una domanda veloce, sì. Ho due figli, due gemellini di 2 anni e mezzo, Davide e Mirko. E a me sarebbe piaciuto farli fare da subito a nuoto, ma più che altro perché sa che si muovono tutte le articolazioni, che le aiutano, sì, nella crescita e queste questioni qui. La pediatra mi consiglia di farglielo fare intorno ai 5 anni, dai 5 anni magari non. A me invece sarebbe piaciuto farglielo fare da subito. Subito. Dottor Confalonieri. Andrea li vuole mettere subito in piscina, almeno lì stanno buoni un po', no? Galleggiano, dipende, si sfogano un dipende, po'. Dipende, a volte gridano e urlano, li vedo tutti i giorni. No, 3 anni è un'età ideale per cominciare. Diciamo che mentre il nuoto neonatale, quello fino ai 3 anni, è utile più in funzione della relazione madre-bambino, padre-bambino, il nuoto dopo i 3 anni è molto molto valido, lasciandoli giocare in acqua, facendo esclusivamente dell'acquaticità, non insegnandogli degli stili, ma insegnandogli l'autonomia in acqua, anche in profondità. È molto utile perché sviluppa tutta una serie di capacità motorie, tutta un'intelligenza motoria che ovviamente fuori dall'acqua non possiamo sviluppare. Quindi è ideale in questa fase d'età. Voglio leggervi i messaggi che stanno arrivando, numerosi, e danno una risposta al quesito proposto oggi dal dottor Confalonieri. I figli dovrebbero fare ambedue le cose, ci scrive Michele, ma non ne fanno neanche una. Un altro ascoltatore dice le due cose vanno di pari passo, è importante per un bambino imparare a leggere e scrivere bene, ma è altrettanto importante che impari a sviluppare e affinare le capacità motorie per avere cognizione dello spazio intorno a lui. Dottor Confalonieri, il gioco, noi l'abbiamo sempre sottolineato, è importante, poi se ai bambini togliamo anche il gioco, poveri figli, ma perché è importante dal punto di vista dello sviluppo fisico? Ecco, questa è una domanda interessante, nel senso che... Avevo quasi capito intelligente. è anche intelligente. Ah, vabbè. Nel senso che se noi guardiamo tutti i giochi della tradizione popolare, di qualsiasi cultura, i giochi per i bambini fin verso i 10 anni, si pensi a nascondino, a celai, mago libero, poi ognuno li chiama secondo il paese da cui viene, sono tutti giochi che sono caratterizzati da rapidità, velocità e situazioni motorie molto diverse. Quindi sono giochi ideali per sviluppare quelle qualità che noi possiamo sviluppare soltanto da bambini, cioè la velocità, la rapidità e la capacità di gestire situazioni sempre nuove, cioè non sono giochi ripetitivi, ma sono giochi in cui il nostro corpo deve adattarsi e quindi elaborare schemi motori diversi di secondo in secondo in funzione della situazione che si presenta. E fino a 10 anni è fondamentale che lo sport scelto o i giochi che i bambini fanno rispondano a questi requisiti. Quindi diciamo che nella tradizione anche millenaria di quasi tutte le culture, perché questa poi cosa l'ho poi studiata anche su culture di diversi continenti, guarda caso tutti i giochi nascevano ed erano pensati proprio per sviluppare quelle qualità che dobbiamo sviluppare fino a 10 anni. Quindi un bambino che gioca rifacendosi alle tradizioni popolari cresce in un modo ideale anche dal punto di vista biofisiologico. Professor Trabucchi, dal punto di vista psicologico il gioco come aiuta? Lei prima ha sottolineato l'aspetto, gli effetti psicologici dello sport, ma il gioco ne ha di diversi, uguali, ne ha meno? No, nel gioco fondamentalmente... Mi piace perché, scusi professor Trabucchi, lei sì. È vero che è in aperta campagna? Perché sento dei belli, degli uccellini, sì, magnifico, noi parliamo di gioco, di bambini, abbiamo neanche, sì. Noi possiamo dire, avremmo potuto dire l'abbiamo fatto apposta, invece non l'abbiamo fatto apposta, ma questo mi piace molto, mi scusi, ma sono andato un attimo campagna, in campagna. Però sono sul bordo di una strada statale, infatti quando passano i camion copro il microfono del telefonino, spero che non si senta in diretta. No, ma io la immagino seduta in un prato, una visione molto più bucolica. Va bene, ci lasci immaginare. Allora, professore, gioco e sviluppo psico. Si ritrovano nel gioco le motivazioni fondamentali che si ritrovano anche nello sport, no? Che sono la motivazione affiliativa, no? Quella c'è della socialità, dello stare con gli altri bambini, che è una molla molto, molto forte. Si ritrova un po' una componente legata al piacere della competizione, al vincere, che nei bambini è importante, perché, come dire, è inutile fare un falso buonismo. La competizione è qualcosa di innato nella nostra specie e anche i bambini sono competitivi. È chiaro che lo sono in maniera molto più sana e in maniera estremamente diversa da come lo sono i loro genitori. E anzi, la competizione del bambino diventa patologica quando c'è un'interferenza della volontà dell'adulto. Ma forse l'aspetto che a me è sempre piaciuto di più, motivazionale, è quello legato alla spinta a sentirsi capaci di raggiungere degli obiettivi, di fare delle cose, cioè il piacere di sentirsi competenti. E quindi una progettualità. Sì, ma anche quando un bambino impara un movimento nuovo, quando gli staccano le rotelline dalla bicicletta e ce la fa da solo a stare in piedi e a muovere i primi passi, prova un grosso piacere, che è un piacere poi in fondo legato alla nostra sopravvivenza, perché la nostra specie appunto usa il gioco anche per effettuare degli apprendimenti. E certo, per crescere. Noi dobbiamo andare a sentire i mercati, dottor Confalonieri. Se vuole dire una parola se no devo... Voglio sottolineare quest'ultimo aspetto, perché è veramente di fondamentale importanza. I bambini che si sentono progressivamente sempre più padroni del loro corpo sono bambini molto, molto, molto più sicuri. Quindi si fa qualcosa che anche dal punto di vista educativo ha un valore straordinario. Viceversa, il bambino che non sta bene nel proprio corpo è un bambino che facilmente diventerà problematico. Eccoci finalmente, Alessandro dalla provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo pronti, ci racconti, lei da che parte sta? Cosa fanno i suoi bambini e cosa faceva lei? Allora, io quando ero bimbo, io per fortuna c'era ancora la possibilità di giocare nel paese, nelle piazzette, quindi giocavamo a pallone, a rincorrerci sulla spiaggia, perché per fortuna abbiamo anche la spiaggia d'inverno che era il campo da gioco. E poi, lei è nato con la camicia? No, per fortuna siamo nati in un bel posto. E poi io ho voluto trasferire questa mia passione dello sport ai miei figli, e questa cosa mi sta riuscendo, perché devo dire, per esempio, mia figlia riesce a fare sia sport come mountain bike con la nostra squadretta di bimbi, tennis, danza, e devo dire che anche a tutti ottimi a scuola, quindi perché Alessandro, quindi fortunato, sì, però bisogna forse anche dare qualche cosa a noi per trasferirlo ai piccoli. Quindi la figlia di Alessandro è riuscita a creare un equilibrio, no? Studia e nello stesso tempo gioca, ma fa anche delle attività sportive, danza, mountain bike. Dottor Confalonieri, invece molti genitori dicono: non ce la fa mio figlio, perché torna a casa tardi da scuola al pomeriggio, ha i compiti, c'è il catechismo, poi ci sono, allora preferisco magari mandarlo agli scout e fargli saltare il corso di nuoto. Ma diciamo che il problema è più spesso anche realmente un problema dei genitori, che non sono in grado di organizzarsi, ovviamente lavorando, in funzione dell'attività sportiva dei figli. Se l'attività sportiva è divertente, cioè il figlio la fa con piacere, come deve essere il caso della figlia del nostro amico, indubbiamente il ragazzo ce la fa. E non solo, il fatto di avere meno tempo a disposizione normalmente ottimizza anche il rendimento nello studio. Allora faccio un'altra domanda provocatoria. Oggi sono in vena. Cosa ha mangiato stamattina? Oggi sono in vena, è il tema che mi, è il tema che mi appassiona. Perché moltissimi genitori dicono: mio figlio è stressato, è stanco, non ha tempo per fare sport, non ha tempo per studiare. Allora vi chiedo, provate il cronometro alla mano a valutare quante ore nell'arco della settimana vostro figlio passa con la PlayStation piuttosto che col computer. E poi raccontatemi se davvero non ha il tempo di muoversi. Professor Trabucchi, In effetti molti genitori lo stanno scrivendo, devono o tenere nascosto addirittura, come ci scrive una signora, l'attività sportiva della figlia, perché sennò poi i genitori, gli insegnanti dicono a scuola la ragazza è troppo impegnata al pomeriggio, per cui a scuola è stanca. Ma molti ascoltatori ci stanno scrivendo dicendo: sì, però alla fine bisogna avere dei bambini particolarmente dotati, cioè vivaci a scuola, che riescano un po' a coniugare i due spazi in modo brillante, un po' come quello che diceva il professor Confalonieri, il dottor Confalonieri. Professore, lei che dice? Ma allora, direi che ci sono due problemi. Uno è un retaggio assolutamente antiquato che ha la scuola, che non capisce, ma questo è stato provato da un sacco di ricerche che sono state fatte negli ultimi 10 anni, che l'attività motoria in realtà è un'attività che aumenta il rendimento anche cognitivo e migliora il funzionamento cerebrale. Sì. Quindi in realtà, tra l'altro, anche l'intelligenza corporea, la capacità di muoversi in un certo modo, è una forma di intelligenza che poi serve e completa tutte, quindi anche il rendimento scolastico. Sì. Ma credo anche che allora, in vena di provocazioni, racconto anch'io un episodio. A me è capitato di essere molto polemico con dei genitori di uno sci club, i quali con figli iscritti alla scuola primaria tenevano i figli un giorno a casa, il giorno prima della gara, da scuola, perché dovevano prepararli, dovevano portarli agli allenamenti, no? Complici anche i maestri stessi di sci, no? Allora, questo è assolutamente un messaggio sbagliato che viene dato al bambino, perché a quell'età lì bisogna pretendere che il bambino si impegni a scuola e si impegni nello sport. Cioè, se no, quando sarà un atleta di alto livello, che cosa farà? A quell'età, con le pretese che ha la scuola italiana, si può benissimo essere bravi a scuola, avere un ottimo rendimento e fare dello sport. Non credo alcuni genitori, penso siano genitori come Matteo, Luisa, Marco e Luigi, scrivono un messaggio molto comune, no? Che è: ma non pretendiamo troppo. Come facciamo poi ad accorgerci che il nostro figlio, sottoposto a questa pressione, come la definiscono immagino molti dei nostri ascoltatori, in qualche modo soffra, ma per non abbia il coraggio di dirlo. E sicuramente il rendimento scolastico è quello che ne fa prima le spese. Dottor Confanonieri, voi avete provocato e io vi leggo quanto raccontano i nostri amici da casa. Ma noi pretendiamo troppo nel momento in cui non ci poniamo obiettivi ragionevoli. Se l'obiettivo è semplicemente che il bambino impari a usare il proprio corpo e si diverta, credo che questo sia conciliabile assolutamente con lo studio. Poi un eventuale obiettivo agonistico dovrà essere correlato alle potenzialità del bambino, ma di per sé abbinare l'attività sportiva e lo studio non è assolutamente pretendere troppo. Nicola da Napoli, buongiorno, mi scuso se l'ho fatta attendere, poi abbiamo Serena, Alessandra, Valeria. Nicola. Sì, salve. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda. Io ho un bambino di 6 anni che fa nuoto da circa un anno. Sì. E praticamente l'anno prossimo non vuole fare più questa attività, vuole cambiare, vuole fare calcio. E siamo arrivati quasi a un compromesso, che lui ha detto di continuare, diciamo, il nuoto se sta pure il calcio. Ma sì, può fare entrambe le cose, oppure diventa una cosa troppo impegnativa. Grazie Nicola. Dottor Confalonieri, ottimo compromesso, siete stati molto bravi. Il nuoto va molto bene per formare, da un punto di vista generale e in particolare cardiovascolare e muscolare, il bambino. Viceversa il calcio è un gioco, è divertente, migliora le capacità motorie, le capacità di reattività a situazioni differenti, la rapidità e la velocità, quindi si integrano perfettamente sia da un punto di vista fisiologico che psicologico. Serena dalla provincia di Varese, buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque, io volevo portare la mia esperienza di mamma con due bimbi piccoli di 3 e 6 anni. Secondo me è bello far partecipare i bimbi alla scelta e seguire le loro inclinazioni spontanee, oltre che offrire tanti stimoli adatti alla loro età. Per esempio il mio grande è da 2 anni che ci chiede di poter suonare la batteria e giocare a rugby. E dunque, appena è stato possibile, all'inizio della prima elementare l'abbiamo iscritto a musica, fa un corso di percussioni proprio con un gruppetto di bimbi della sua età ed è contentissimo. E va a giocare a rugby, si butta per terra, si rotola insieme agli altri, si picchiano tra virgolette e torna a casa lercio e felice. Mi piace questo lercio e felice, dottor Confalonieri, quindi musicista e rugbista. Va molto bene, giustissimo assecondare l'inclinazione del bambino. Per uno può essere prevalente la musica, per l'altro lo sport, però integrandola con un minimo di quello che non fa, seguendo le sue inclinazioni naturali. Voglio leggervi un messaggio di Luca. Si possono fare tanti auspici, ma la colpa è di noi adulti. Ho 44 anni, da piccolo passavo i pomeriggi in bici a giocare a pallone. Oggi non vedo nessuna partitella spontanea. In compenso sforniamo campioni di PlayStation. Un messaggio a cui desidererei avere un commento dal professor Trabucchi. Molti bambini, no, passano tante ore davanti alla PlayStation e tolgono queste ore, la provocazione del dottor Confalonieri, ve la ricordate, era molto chiara, all'attività sportiva, anche all'apprendimento di uno strumento musicale, insomma qualche cosa di diverso. Con che risultato, professor Trabucchi? Ma sono d'accordo che è un panorama desolante, soprattutto perché io sono d'accordo con quello che diceva quell'ascoltatrice di Varese, nel senso... l'importante è assecondare, creare le condizioni perché il bambino trovi una sua passione. Se poi la passione è nello sport, va bene, ma se suonare la batteria va altrettanto bene. Il problema è che la PlayStation è una macchina che dà degli stimoli molto semplici, e anche se, come dire, sembrano particolarmente elaborati, ma a livello motivazionale non stimola molto poco. Per cui che cosa succede? Cioè, mi collego anche a quello che dicevano alcune telefonate, no, che avete letto. Cioè, la pressione sul bambino non è legata al fatto che noi pretendiamo da lui dei risultati di tipo sportivo, perché ovviamente questo è scorretto, ma il fatto di dargli molti stimoli invece, molte opportunità, è assolutamente qualcosa che il bambino è in grado di gestire, perché i bambini sono degli esseri perfetti e hanno infinite risorse, e invece proprio dandogli dei contesti così semplificati come il gioco della PlayStation, che in fondo ha una funzione più che altro di renderlo quieto e acquiescente, è chiaro che gli togliamo la possibilità, certo, di esprimere un sacco di potenzialità. Lo facciamo andare con il freno, avanti col freno a mano, no? Quindi non gli permettiamo di esplorare tutti gli stimoli che vengono dalla realtà e dalle relazioni. E riprendiamo con un messaggio: se il bambino si diverte riesce a fare il doppio di quello che pensiamo. Vedi gite scolastiche dove non dormono ma saltano 20 ore al giorno. Saluti una mamma. Ritornano che sono straccetti, però felici. È perfettamente in linea con quanto diceva il professor Trabucchi. Noi tendiamo a limitarli. Se c'è il divertimento, il bambino è curioso, esplora per natura proprio. Valeria da Verona, buongiorno Valeria. Sì, buongiorno. Io condivido pienamente quello che diceva il dottor Confallonieri, vorrei rispondere un po' alle sue domande provocatorie, che sono in realtà un grande stimolo, penso, per tutti i genitori. Io sono mamma di 3 bambini, 11 sì. anni, una femminuccia e poi 7, 5 anni, 2 maschietti. Ho sempre dato molta importanza all'attività motoria, a volte con qualche senso di colpa rispetto a quello che vedevo di altre mamme che concentravano molto sullo studio, però effettivamente c'è tempo per entrambi. Io innanzitutto ho la fortuna di avere bambini che vivono all'aria aperta. Lo sport però chiaramente dà una dimensione in più rispetto all'attività del gioco, nel senso che comunque c'è quella piccola e sana competizione che trovo non sia poi così deleteria, soprattutto se vissuta nei termini in cui la sconfitta va elaborata e va trasmessa come un'esperienza utile, certo. Quindi non, diciamo, lo spirito agonistico per cui il bambino deve assolutamente vincere se non perdente, anzi ben venga quando perde e gli si fa capire che appunto la vittoria o diciamo il risultato positivo si ottiene con fatica e non è scontato, cosa che invece questi bambini, vedo tanti bambini, danno per scontato che ormai tutto, la PlayStation a volte è anche più facile vincere perché ci sono i livelli, mentre invece nella vita non è sempre così. Valeria mi ha detto, guardi, è proprio così, la PlayStation ci sono i livelli, la vita invece, insomma te la giochi lì, vero dottor Confallonieri? Assolutamente sì, credo che sia una testimonianza estremamente importante e di grande stimolo per me e per tutti, e con quest'ultima notazione che semplifica un concetto sicuramente significativo. Alessandra ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Buongiorno a lei. Ci racconti? Io ho una figlia, sì, ho una figlia di 8 anni che da un po' di tempo è nella propaganda, quindi ha cominciato le prime gare di nuoto. Sì. Lei è molto portata, va volentieri, quindi va anche in corsi che sono in cui è la più piccola. Sì. Ora lei comincia a fare 2-3 allenamenti alla settimana, sono allenamenti di un'ora e sono abbastanza impegnativi, abbastanza tosti. La domanda è questa: controindicazioni fisiche non credo ce ne siano, ma di tipo mentale, collegate magari allo stress sì. della gara, stanchezza particolare o ansia proprio da prestazione? Questo mi domando se a 8 anni sia un po' presto. Professor Trabucchi, una domanda magnifica per lei. Certo, ma no, io credo che il problema può essere quando si chiedono dei risultati al bambino o alla bambina, cioè come dicevo all'inizio c'è una competitività nel bambino che è una competitività sana. Sì. E il fatto di avere un obiettivo per cui impegnarsi è in realtà stimola la crescita di molte risorse interne che poi serviranno nello studio e serviranno nella vita. L'importante è evitare quell'errore che fanno molti genitori di in un certo senso, anche se questa cosa non viene detta in maniera esplicita verbalmente ma viene fatta capire attraverso il comportamento, io leggo al risultato che tu fai un po' la stima sì, io di che te, di no? Te. Allora è molto pericoloso perché poi questo tipo di, diciamo, di associazione il bambino se la porta dentro e, sì. E poi invade anche altri settori della sua vita. Dottor Confallonieri, io vorrei però, rifacendomi la domanda della mamma, come genitore, come posso accorgermi che nonostante io non investa, non gli faccia credere che il risultato è l'unica cosa a cui lui deve pensare, ma io come posso accorgermi che lui in qualche modo la sta vivendo male o non è ancora pronto? Magari a 8 anni lei vorrebbe vincere, riporta dei risultati non all'altezza, insomma come si fa? Segnali di insofferenza, non vorrei parlare di disagio? Ma io ho un concetto che ho maturato in tutti questi anni di esperienza. Secondo me anche con bambini molto piccoli è fondamentale stabilire un contratto all'inizio, sì, tra società, genitore e bambino. Cioè dire: tu quest'anno andrai a nuotare con questi obiettivi. Se il bambino ha un contratto, quindi si muove in un certo contesto, sa che nuoterà per divertirsi, sa che nuoterà per migliorare la tecnica in quello stile, piuttosto sa che nuoterà per arrivare a fare quel tipo di competizione o a podio in quel tipo di competizione, è difficile che poi si trovi in difficoltà perché non si trova in linea con le aspettative. Il contratto va stabilito con intelligenza, sì, va condiviso con i tecnici e poi va verificato alla fine dell'anno. In questo modo, se al bambino possiamo parliamo fare, in certo, modo chiaro, tagliandi, facciamo dell'ottima prevenzione. Prima di chiudere, vi segnalo che domenica 2 maggio si terrà la 9ª edizione della Giornata Nazionale per l'Epilessia, che è organizzata dalla LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia. Il tema di quest'anno è: chi soffre di epilessia non è un diverso. Noi a questo tema abbiamo dedicato tante puntate che potete riascoltare nel nostro archivio. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Tinuper. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi. Responsabile del Centro Epilessia della Clinica Neurologica dell'Università di Bologna e Vice President della Lega Italiana contro l'Epilessia. Professore, voi avete focalizzato la vostra attenzione sui risultati di un'indagine che avete fatto per misurare un po' il grado di conoscenza degli insegnanti delle scuole primarie nei confronti dell'epilessia. Da che cosa è emerso? Sì, abbiamo chiesto alla DOCS di fare queste indagini su tutto il territorio nazionale e abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. Intanto il 99%, quindi quasi tutti gli insegnanti, conosce l'epilessia e addirittura quasi la metà di loro ha avuto a che fare con l'epilessia in un alunno in classe durante gli anni. Sì. Nonostante questa realtà, purtroppo più della metà degli insegnanti ha delle idee che sono errate, nel senso, per esempio, che pensano che l'epilessia non sia guaribile nei bambini, oppure ritiene che il bambino potrà avere sempre dei problemi durante la vita o che l'epilessia possa causare disturbi mentali o del comportamento. Ecco, questo non è vero, perché in età infantile possono insorgere delle epilessie talora gravi, ma sì, la maggior parte sono delle epilessie benigne che scompariranno. Un altro aspetto, sì, se posso, certo che deve, è che è molto importante, è che più della metà dei casi degli insegnanti si dichiara incapace di gestire un bimbo durante una crisi epilettica e addirittura sì, quello che loro farebbero sarebbe sbagliato. Questo è assolutamente grave, perché le cose da fare durante una crisi epilettica sono molto poche e sono sufficienti per garantire la sicurezza del bambino. Quindi noi ci impegneremo molto adesso in una campagna di educazione proprio per gli insegnanti. Professor Tinu, per lei ha sottolineato questo aspetto, cioè gli insegnanti spesso non sanno come intervenire in una crisi epilettica e le cose che magari sanno sono quelle sbagliate. Vogliamo chiudere questa trasmissione dando delle istruzioni nel caso noi ci trovassimo, quindi ci rivolgiamo non solo agli insegnanti ma anche alla gente comune, può capitare in contesti più disparati, al ristorante, in palestra, per strada, che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare, professore? Si deve fare molto poco, bisogna proteggere il paziente se ha dei movimenti, delle scosse, in modo che non urti contro qualche cosa e si danneggi. Non bisogna mai inserire qualche cosa in bocca per tenere aperta la bocca, questo può essere pericoloso per i denti, per la gola, per il bambino, quindi la bocca non va toccata. Una volta che la crisi è finita si deve controllare che il paziente respiri normalmente e se ci sono dei problemi ovviamente chiamare l'ambulanza. Professor Tinuper, ricordiamo il sito della LICE, quindi domenica Giornata Nazionale per l'Epilessia. Ringrazio il professor Tinuper, grazie per essere stato con noi professore. Grazie a voi. Ringrazio il professor Pietro Trabucche che ci ha dato davvero una mano per questa puntata, un po' tutta giocata tra sviluppo fisico, motorio e psicologico. Grazie professor Trabucche. Grazie, per essere stato con noi. Dottore, noi ci vediamo venerdì prossimo. Va bene. Per nuove entusiasmanti avventure. Buon weekend al dottor Confalonieri. Noi ci sentiamo domani per Questa casa non è un albergo a mezzogiorno. Un saluto da Nicoletta Carboni.